Allora, io direi che possiamo iniziare e intanto vi do il benvenuto a tutte le signore e signori a questa nuova iniziativa. Prima però, ecco, come sempre, faccio i miei spot pubblicitari. Domani alla stessa ora, 17:30, saremo di nuovo qui in compagnia di una signora di Bressanone che presenterà il suo libro Villa del Parco. La signora è Patrizia Garelli Rossi. La presentazione sarà animata da due lettrici, da due lettori, Maria Cristina Amadei e Giuliano Gobbetti. C'è a Bolzano, infatti, da qualche mese un'associazione che a livello nazionale ha delle sedi sul territorio, e una è qui a Bolzano, fatta di volontari che si allenano e si adoperano alla lettura ad alta voce. Fanno un servizio di volontariato nelle case di riposo, nelle scuole, e ogni tanto vengono anche qui in biblioteca. Ci allietteranno qualche mattinata, per cui chi avesse tempo e piacere ogni tanto di ascoltare un romanzo, o meglio una parte di un romanzo raccontato ad alta voce, sappiate che ci saranno degli appuntamenti alla mattina in questa biblioteca. È molto bello, abbiamo fatto un esperimento la settimana scorsa, è stato bellissimo. Quindi domani intanto avremo la serata con l'autrice, Villa del Parco, come vi dicevo, un romanzo ambientato tra Bologna e Bressanone, con Patrizia Garelli Rossi. E poi la prossima settimana, passata la Pasqua, e vi ricordo che venerdì siamo chiusi fino anche a lunedì, poi riprenderemo martedì, e mercoledì invece 3 aprile alle ore 17:30 sarà la volta della presentazione di un libro di poesie, Il Sema Acquatico nella Poesia, con Franco Lattino, Eugen Galasso, e la lettura di Maria Pia Zanetti. Arriviamo così alla nostra serata con l'ospite che ringrazio, Gino Bombonato, archeologo, lo conoscete anche per l'attività che svolge con la cooperativa Thalia nel bunker di Via Fago, che è riuscito a rianimare, a riportarlo in auge e soprattutto a farlo conoscere a tanti bolzanini e bolzanine che forse non essendo nati con l'epoca della guerra un poco prima, non conoscevano. Ma a me piacerebbe anche tornare a vederlo. Devo dire che sono in grado di organizzare tantissime manifestazioni di grande richiamo, e questa sera ce l'abbiamo con noi. Grazie a Leo Andergassen, che ringrazio ancora molto, perché questa è la terza serata che organizziamo in collaborazione col Museo del Castel Tirolo. Il direttore è qui con noi, ci accompagna tutte le serate. Grazie Leo. E quindi questa sera, sempre dedicandoci al Castel Tirolo, al nostro maniero emblematico, emblema del nostro territorio, abbiamo con noi Gino Bombonato, che ci darà invece uno spaccato di questa storia, di questa zona, da un punto di vista archeologico, che è la sua competenza principale. Lo ringrazio molto. Avete qualche libro lì che riguarda il tema, oppure che riguarda Gino Bombonato? La biblioteca, come avete visto, raccoglie le iscrizioni, sono tutte gratuite, è un modo per raccontarvi e tenervi sempre al corrente di quello che facciamo. Ecco, è semplicemente un modo per mandarvi una mail e dirvi domani c'è questo, la prossima settimana c'è quello, e quindi insomma, se vi iscrivete, che è gratis, potete rimanere in contatto con noi. E come sapete ne facciamo di tutti i colori, quindi vi ringrazio, buona Pasqua e a presto. Non scappare, perché devo ringraziarti davvero di cuore. Ringrazio la direttrice Valeria Trevisan, e sia per avermi ospitato qui, ma anche per l'allestimento della sala con i libri su Castel Tirolo. Cioè, è stata fatta una cosa veramente graziosa. Non mi aspettavo neanche un mio romanzo messo sul tavolino, mi ha fatto veramente piacere. Ma devo ringraziare soprattutto il direttore Leo Andergassen, perché è stato lui a darmi la possibilità di pubblicare questi dati su uno dei quaderni di Castel Tirolo. E quindi, quando è venuta fuori questa opportunità, io ero veramente lusingato, ma devo dire proprio orgoglioso di questa possibilità, perché finalmente, dopo tanti anni di ricerche, si riusciva a mettere nero su bianco su delle ricerche che hanno riguardato praticamente tutta la collina del Castello. E quindi un mio sentitissimo grazie a Leo Andergassen per questa grande opportunità. E poi grazie a voi che siete qui stasera. Siete tanti, sono contentissimo e sono contento soprattutto di parlare di questa pubblicazione. In realtà è uscita 2 anni fa, però abbiamo avuto modo di elaborare bene la cosa, è uscita durante il Covid, quindi adesso è il momento giusto, effettivamente. Il momento giusto perché, come diceva la direttrice, sono state presentati altri lavori su questo castello ed è bene che magari, non so se Leo, se questa è l'ultima, è l'ultima, l'ultima, benissimo, che parte dalle origini allora. E quindi ecco, il castello lo conoscete tutti. Questa foto, che forse non è una foto abituale di Castel Tirolo, devo rivelarvelo, l'ho fatta da una chiesina che si trova sopra Marlengo. La chiesa è la chiesa di San Felice, è una chiesa veramente poco conosciuta. Ho avuto l'opportunità di scavarla qualche anno fa e da lì c'è una vista meravigliosa sul castello che ho preso chiaramente con uno zoom. E questa chiesina di San Felice è famosa perché ha una fonte che ancora oggi, perché San Felice è il santo protettore della vista, delle malattie della vista, e c'è una fonte da cui gli abitanti del luogo prendono l'acqua per bagnarsi gli occhi allo scopo di preservare appunto la vista, una cosa molto bella. E il libro che è uscito, eccolo qui, il quaderno numero 7, riporta tutta una serie di sondaggi che io ho fatto sulla collina intorno al castello fra il 1994 e il 2004 circa, una decina di anni. Ma in realtà, dunque si fa così, ecco, questa è una foto presa da Google Maps, in realtà il castello si trova qui, proprio al centro. E il castello che si trova su una collina, digradante verso il basso, vicino al complesso importantissimo della chiesa di San Pietro di Quarazze, e poco distante dal paese di Tirolo, dove abbiamo anche un'importante chiesa dedicata a San Giovanni. Bene, la chiesa di San Pietro e le vicinanze della chiesa di San Giovanni hanno restituito resti del primo Medioevo. Quindi siamo nella tarda antichità, presso l'albergo Sonne. Sono venuti fuori resti di un'abitazione del primo Medioevo. E quindi capiamo che Castel Tirolo si trova veramente in mezzo, ma Castel Tirolo è qualcosa di più. È una collina che ha la capacità di dominare una grossa fetta di territorio. L'uscita della Val Venosta e tutto il tratto della Val d'Adige praticamente fino ad Appiano. Con un buon binocolo si vedono un'enorme quantità di castelli proprio da Castel Tirolo. Lo stesso Castel Tirolo è incredibilmente circondato di castelli, perché c'è Castel Torre un po' più sotto, c'è Castel Fontana qui sotto e c'è un altro castello praticamente sconosciuto che si chiama Castel Rubain. In realtà Castel Rubain è un castello utilizzato oggi, cioè un castello integro, abitato, ma la precedente sede dei Rubain e del loro castello si trova esattamente sopra, adesso devo orientarmi un secondo, dovremmo essere da questa parte qui, sopra la galleria della passeggiata che da Tirolo porta fino al castello. Pensate che una volta si riusciva a intravedere ancora qualche cosa, ma sopra questa galleria, una galleria molto antica, risale al 1600, sopra questa galleria ci sono i resti di Castel Rubain. Li ho scavati nel lontano 1996-97, scoprendo il mastio, parte del palazzo, l'ingresso, un castello che è completamente decaduto, ma soprattutto perché il terreno morenico su cui poggia sia Castel Rubain, ma come poggia anche Castel Tirolo, è cedevole, con il tempo è cedevole. È purtroppo un terreno che ha avuto dei crolli anche sostanziali. Uno piuttosto recente, di una ventina di anni fa, ha portato via proprio una fetta del palazzo di Castel Rubain, che una volta si vedeva bene sopra la galleria, oggi non si vede più. Castel Tirolo, come lo conosciamo oggi, è una struttura imponente, con un mastio slanciato, un mastio che è stato quasi completamente ricostruito. Si vede molto bene un segno che contraddistingue la parte originale del mastio da quella che è stata ricostruita, perché il castello è caduto in disuso, diciamo proprio in rovina, e poi è stato per fortuna ripreso. Ma si tratta pur sempre di uno dei più importanti castelli della nostra provincia e soprattutto la sede dei Tirolo, che hanno così fortemente caratterizzato la storia di questa terra. Bene, come noi vediamo oggi Castel Tirolo? Lo vediamo come un castello di una certa importanza che si eleva su questo colle in maniera maestosa. Le ricerche che sono state fatte nel corso del tempo intorno al castello hanno dimostrato che questo castello era molto più grande di quanto potessimo immaginare. E effettivamente non ce l'aspettavamo. Allora, intanto andiamo a vedere la pianta del castello. Castel Tirolo, il mastio, l'ufficio di Leo, il lato orientale, il lato occidentale e il lato meridionale, con la cappella palatina. E cappella palatina che è importantissima perché è una cappella a due piani, possiede una crocifissione meravigliosa del XIV secolo, degli affreschi, possiede un portale come il portale del Salone, che sono tra le opere più belle in assoluto del romanico, parliamo di scultura, del romanico altoatesino, e soprattutto possiede una cripta che qui è stata disegnata. Viene chiamata cripta, però qui, adesso questo è un mio parere personalissimo, io ho sempre avuto la sensazione che in realtà la cappella palatina fosse stata costruita su una chiesa precedente. E questa chiesa precedente molto probabilmente esisteva nel momento in cui ancora era in uso la chiesa sotto il castello. Che cos'è questa chiesa? È quello che ha dato il là a tutte le ricerche, perché questa chiesa qui è una chiesa completamente sconosciuta. Noi non sappiamo, non conosciamo il patrono, non sappiamo nulla, è venuta fuori per caso. Un bel giorno, era il 1992, il direttore dell'ufficio archeologico della provincia mi manda a Castel Tirolo e avevano appena fatto uno sbancamento per realizzare una vasca per l'acqua, per l'impianto idrico e per l'impianto dei pompieri per il castello. In un angolino di questo sbancamento emergeva una struttura, un muro. Soltanto un muro, niente di più. Ma le prime pulizie hanno subito messo in evidenza che questo muro apparteneva a una struttura semicircolare E all'interno di questa struttura semicircolare c'era la base di un piccolo altare. Sorpresa! Non esistono documenti che citino questo edificio ecclesiastico. 2 anni dopo, nel 94, comincia uno scavo importante per mettere in luce questa struttura. E che cosa scopriamo? Scopriamo una chiesa triapsidata, come quella che si può notare da questa parte, triapsidata, quindi con 3 absidi, in ogni abside un altare. Ma la cosa più strana è che si capisce fin da subito, ecco, guardate, ve lo indico, io non so se si vede, questo è l'ingresso della chiesa, lo si vede? Si nota subito una cosa, che non è centrale, non è al centro dell'aula. E questo ha cominciato a destare dei sospetti. E infatti scopriamo che questa chiesa triapsidata è stata costruita sopra una precedente chiesa. E questa chiesa aveva un'unica abside semicircolare. Ma non è tutto. Le ricerche pian piano ci fanno capire che sotto i pavimenti di questa chiesa, chiamiamola monoapsidata, c'era un ambiente più profondo. Non una cantina. È molto probabile che si trattasse di una chiesa a 2 piani. Quindi la collina di Casteltirolo non solo ci riporta indietro nel tempo, perché a un certo punto abbiamo bisogno anche di datazioni. E che cosa succede? Succede che proprio sotto questo muro troviamo una lastra di pietra, una lastra che va sotto il muro, ma si capisce perfettamente che questa lastra si trova esattamente nella direzione dell'ingresso. Guardate, sulla stessa linea. Cosa significa questo? Significa che questa lastra poggiata di piatto quasi sicuramente si trovava davanti all'altare della primitiva chiesa. E allora questo comincia a creare un certo entusiasmo. La lastra purtroppo si insinuava sotto il muro e abbiamo dovuto chiamare una ditta che ha tagliato questa lastra perché era l'unico modo per tirarla via. E sotto che cosa c'era? Rimango delusissimo. Mi aspettavo il classico loculo delle reliquie, cioè quegli ambienti piccoli, sotterranei, sotto gli altari in cui venivano messe le reliquie dei santi. Questo mi aspettavo. Invece io trovo, appena sotto la lastra, un riempimento enorme di malta e pietre. No, qui se c'era qualcosa hanno portato via tutto. Allora cominciamo a togliere questo materiale e comincio a scendere effettivamente nell'oculo, un primo gradino, un secondo, un terzo, fino ad arrivare a un piano, a questa profondità qui circa. Tolto tutto il materiale, mi trovo di fronte a un'altra lastra di pietra, questa volta verticale. E ho detto, vabbè, se lì dietro c'era qualche cosa, hanno chiuso perché oggi non c'è più niente. Dopo la solita documentazione, finalmente, issandola con delle corde, tiriamo via anche questa lastra verticale. E io scendo sotto, scendo, mi accuccio, guardo e svengo. Mi sono accasciato nell'oculo, svengo perché dentro l'oculo c'era un cofanetto di marmo bianco che era il contenitore di un reliquiario. E non ce l'aspettavamo. Allora lo tiriamo fuori e dopo aver fatto 10.000 fotografie, è un cofanetto grande così, con un coperchio. E mi ricordo l'allora ex direttore Siegfried. L'abbiamo incaricato, ma in una, eravamo tutti eccitati come non so cosa. Dai, fai tu. Nessuno aveva il coraggio di scoprire questo coperchio. Fai tu. A un certo punto lo solleva e dentro c'è una capsella d'argento, una pisside, un porta reliquie di V secolo, che è stata la sorpresa più grande in assoluto. Pensate che cosa ha restituito la collina di Castel Tirolo. Dentro quella scatoletta d'argento c'era un fagottino che a sua volta conteneva tre piccoli fagottini di seta, e in ognuno di questi c'erano delle reliquie. Un frammentino di Vangelo, degli ossicini, dei peli, dei carboncini, delle ossa, tutte reliquie. Ma di chi? Non lo sappiamo. Questo rimane il mistero, uno dei misteri di Castel Tirolo. Ma io quasi quasi preferisco così. Mi affascina molto di più questa cosa. Se mi avessero detto, guarda, si tratta di... San, a chi è dedicata la cappella, Leo, oggi? Questa? Pancrazio. Se mi avessero detto sono le reliquie di Pancrazio, Achilleo e Nereo, per una teoria, sì, sarei stato contento, però che peccato, adesso lo so. Non è più così, così eccitante. E invece rimane questo mistero grandioso. Ma questa chiesa di fatto ha dato il via, ha dato il là a tutta una serie di ricerche che hanno costellato veramente tutta la collina. E allora guardate, G, quel punto là, è dove c'è la stradina, dove c'è quella specie di negozietto che vende bibite, gelati, cappelli, vende queste cose, è proprio a fianco a quel quadratino rosso. E poi questa è la strada, la vediamo qui, sul lato ovest, che segue il castello e che porta poi all'ingresso. E che porta anche alla chiesa, che oggi è musealizzata ed è visitabile. E gli altri segni rossi, questo, tanti altri, ogni sondaggio, ognuno di questi sondaggi ha dato dei risultati importanti. Di per sé, forse presi uno per uno, non così eclatanti, nell'insieme, invece, ci fanno capire che la collina di Castel Tirolo è una delle colline archeologicamente più importanti della nostra provincia. Perché con i vari scavi abbiamo scoperto che ci sono tracce abbondanti di capanne dell'età del bronzo, di capanne dell'età del ferro, tracce di epoca romana, abbondanti tracce di epoca del primo medioevo, compresa la chiesa naturalmente, ma quindi tanto. E poi, soprattutto, una visione decisamente sorprendente del castello. Perché? Perché i vari sondaggi hanno portato a verificare l'esistenza di strutture del castello, strutture su questo lato qui, su questo lato, quello, da questa parte, qui, dappertutto abbiamo strutture che ci indicano chiaramente che la visione che abbiamo oggi attualmente del castello è fortemente limitata. È limitata a quello che è il nucleo principale del castello, ma tutto intorno c'erano altre strutture. Persino qui, quando si arriva dalla passeggiata dall'altra parte, queste sono delle tettoie. Mi sono infilato sotto queste tettoie. Addirittura qui ci sono delle scale del castello che portano verso l'alto. Sotto quelle tettoie spuntano tantissimi muri che andavano in direzione est, di ambienti che sono crollati nel Köstenbach, nella gola del Köstenbach. Gola importantissima perché era il ruscello che portava acqua al castello. E In più, con questo sondaggio scopriamo che c'è una torre, un'altra torre. Non si conosceva. Noi da questa, su questi lati qua, questo è un muro di cinta, è un muro di terrazzamento, c'è un cambio di pendenza molto forte, è un muro che si eleva per 4 metri buoni sotto la chiesa, e sopra c'è questo prato molto, molto piacevole, molto agevole per gli ospiti che vengono a visitare il castello. Ma sotto quel prato c'era di tutto. E adesso andiamo a vedere alcune cose. A vederlo così dice poco. Terra, sassi, niente di più. Ma se io in una situazione del genere trovo dentro anche un pezzettino di pettine in osso del VII-VIII secolo, no, certo che mi interessa questa storia. Perché oltretutto io noto sotto degli strati di terreno che vanno a sigillare delle situazioni molto antiche, trovo delle strutture con relativo crollo e sul lato interno di queste strutture una fossa di palo bruciato che potrebbe identificare una palizzata di legno, ovvero un'antica forma difensiva di un castello. Se castello era, parliamo chiaramente prima di Castel Tirolo, e nella rappresentazione grafica che è stata realizzata sul quaderno ecco che gli strati cominciano ad avere una loro funzione, una funzione molto importante, perché la stratigrafia archeologica è proprio quella cosa che ci aiuta a determinare la cronologia degli eventi che si sono succeduti nel tempo. Pertanto, se io noto che questa buca di palo, un classico, guardate, sembra una cosa da manuale di archeologia, la fossa con delle pietrine che fungevano da zeppe per il palo, per fissarlo al terreno, che poi brucia lasciando i carboni. E sopra degli strati antropici, cioè strati che sono cresciuti per la presenza umana, antropizzati, che vanno a coprire la buca di palo. Pertanto è chiaro che qui ho un qualche cosa, un evento che è successo, che ha bruciato questa probabile palizzata, e dopo questo evento è succeduto un altro evento che invece ha cancellato questa traccia. Ecco perché la stratigrafia archeologica è di grandissima importanza, come in questo caso. Siamo a poca distanza dalla chiesa e qui abbiamo tutto il materiale morenico, pieno zeppo di grandissime pietre, quelle che poi in certi casi formano le piramidi. E una volta spendevo tantissimi soldi in puntine da disegno, perché mi piaceva da pazzi, perché sulle foto rendono parecchio in effetti, utilizzare le puntine da disegno di diversi colori, perché ogni colore avevamo deciso che potesse essere attribuibile o a un piano di calpestio o a un focolare o a una struttura o delle buche, eccetera eccetera. Quindi mi divertivo come un matto ad avere sempre scatole intere di puntine da disegno e le infilavo negli strati come questi. Certo, dopo non si poteva più passare col metal detector, perché chi lo usava andava fuori di testa. E questo che sembra una cosa veramente caotica, ma in questa sezione ci sono delle cose che si rivelano molto importanti. Ecco quel disegno, quindi una grande buca che taglia gli strati, 2 focolari, una struttura, i muri del vigneto, ma questi focolari sono molto importanti. È come se per un certo periodo Nell'alto Medioevo, parliamo di VI, VII, VIII secolo, in questo periodo intorno alla cima della collina di Castel Tirolo ci fosse stato qualcuno che accendeva dei fuochi per riscaldarsi, per cucinare. Maestranze? Operai? Chi poteva essere? Perché in uno spazio ridottissimo, in una sezione, quindi una sezione vuol dire che io ho un taglio verticale del terreno, ma in estensione non so quanti ce ne sono. In una sola sezione avevo 4 focolari. È un'indicazione molto importante. E da questi strati sono venuti fuori reperti tipicamente altomedievali. Sempre nelle vicinanze, guardate, costruisco un edificio e viene fuori un'antica abitazione costituita da questo muro e da questo muro e con un pavimento di terra. Ma una costruzione importante, perché guardate che cosa è successo. Il suolo di oggi, un masso che è stato lasciato in posto quando è stato costruito questo edificio, 2 muri e un riempimento incredibile di terreni, qui c'è un crollo, di terreni che si sono accatastati con questo andamento, e questo andamento ci fa capire che l'edificio è stato riempito volontariamente. Cioè, una stratigrafia così particolare, così dettagliata, così complessa, con tanti strati, indica generalmente il riempimento volontario di uno spazio vuoto. Mentre alla base di tutto questo invece c'era il piano di calpestio, il primo piano di calpestio di questo edificio, che è stato riutilizzato in un secondo momento, e ritroviamo un altro pavimento qui. Quindi una situazione davvero complessa. Che cosa ci dice soprattutto? Che non è soltanto un edificio, guardate che murature che aveva, a secco, qui non c'è malta, tutto a secco. Guardate che meraviglia, pietre scelte con estrema cura, dei muri realizzati con un'ottima pratica, e appena sotto questo un secondo edificio che subito evidenzia una cosa importantissima. Nell'angolo, allora il nord è così, nell'angolo nord-est di questo edificio, questa volta un edificio con muri a malta, non solo, con su uno strato di intonaco e non medievale. Si tratta di un edificio alto medievale, un edificio alto medievale con muri composti da pietre e malte e tanto di intonaco. Una cosa ricca, non da poco. I muri non hanno spessori enormi, quindi possiamo subito capire che non si tratta di un edificio militare, ma si tratta quasi esclusivamente di un edificio, diciamo così, civile, ecclesiastico, non lo sappiamo. L'unica cosa che sappiamo è che su questo angolo compare un focolare. Con queste pietre disposte a taglio nel terreno e il focolare. Poi osservate bene, guardate, il focolare comincia proprio qui e questo muro, questo, si appoggia a questo muro. Questo è il muro dell'edificio e quindi abbiamo in sostanza uno spessore di circa 50 centimetri e altri 20 centimetri di un muro che viene costruito appositamente per realizzare il focolare, quindi in un secondo momento. Ma un focolare? Beh, io ho dovuto confrontarmi con qualcuno scoprendo che questo focolare, che doveva avere una cappa sopra, doveva avere per forza una cappa sopra, perché altrimenti il fumo di questo focolare qui creava non pochi disagi all'interno dell'edificio. Confrontandomi con qualche collega, salta fuori che si tratta di una scoperta molto, molto rara. un focolare con una possibile K all'interno di un edificio che potremmo ipotizzare come civile e non militare, oppure diciamo semplicemente non militare, basta, a Castel Tirolo. E quando questo? Sempre nel primo Medioevo. Cioè siamo in una fase dove non c'era Castel Tirolo, e al posto di Castel Tirolo cosa c'era? E qui è l'altro grande mistero. C'era un castrum, cioè una fortificazione tipica del primo Medioevo, oppure c'era un monastero? Bella domanda. E sono proprio quelle domande che, tutto sommato, non potendo ancora dare una risposta, o forse non arriverà mai questa risposta, ci lasciano dentro il gusto del fascino, la bellezza del dubbio. Questo, perché se avessimo tutte le risposte, se l'archeologia ci potesse dare tutte le risposte, beh, saremmo tutti stufi. E invece così. Le sorprese non finiscono qui. Queste curiose pietrine negli scavi archeologici, niente avviene per caso. E quelle pietrine, che cosa ci fanno? Perché si trovano in quella posizione? Andiamo a vedere. Ah, scusate, questa è un'altra sezione, è molto importante. Questo è uno dei muri, e questo è uno dei muri del focolare che si appoggia al muro dell'edificio. Quelle pietrine erano la parte sommitale di un forno. Un forno, ma guardate che meraviglia. Questo ha una, da qui fino a lì saranno circa 60 centimetri, e c'era questa pietra poggiata di piatto sul terreno, proprio a livello del pavimento, e una cupoletta con queste pietrine fatta molto bene. Cosa ci cuocevano qui? Pane? Forse pane, non lo sappiamo. Abbiamo recuperato qualche elemento dal terreno, però ecco che al di sotto di questo edificio con tanto di camino dell'alto Medioevo troviamo una piccola fornace ancora più antica, che a sua volta, e qui la vediamo dall'alto, a sua volta è stata costruita sopra i resti di una capanna dell'età del ferro, che abbiamo scoperto grazie alla presenza di una serie di buche di palo di questa capanna di epoca retica preromana, assieme a qualche frammento di ceramica che ne ha attestato la cronologia. Quindi guardate, in un piccolo sondaggio che cosa abbiamo trovato. Abbiamo trovato un camino costruito in una seconda fase all'interno di un edificio molto importante, forse residenziale, sotto una fornace e sotto una capanna dell'età del ferro. La collina di Castel Tirolo è tutta così. È tutta così. Qui siamo lungo il tratto di muro che divide la zona della chiesa, la zona bassa, dalla zona alta. Adesso qui c'è un bellissimo prato. Una volta era un cantiere pazzesco, però abbiamo avuto la fortuna di indagare uno dei muri romanici, uno dei muri di cinta romanici del castello. Possiamo tranquillamente dire che siamo XII-XIII secolo, ma visto dall'interno. E cosa scopro? La prima cosa importante è che il muro all'interno è regolare. Come regolare? Mi aspetto una fondazione irregolare, perché la fondazione è quella parte che mi consente l'alzato fuori terra. Invece sotto io scopro un muro regolare. E questo muro ha una caratteristica incredibile. A un certo punto il muro è questo e c'è una struttura che angola verso il castello, verso monte. Ma una struttura veramente spessa, veramente imponente. Quindi un angolo che va verso il castello. E che cosa poteva essere questa? Dalla struttura sembrerebbe una torre. Quindi una struttura difensiva collocata sul Ringmauer, sulla cinta più esterna del castello, di cui non si sa più niente. E perché? Perché è crollata. Questa breccia che si vede qui, guardate la spaccatura, qui il muro si è proprio allargato, e queste sono chiare e indicazioni di una muratura, tra l'altro importante, perché ha dei tratti a spina di pesce, quindi si capisce che è veramente antica, in fase con il primitivo castello. Ma questa torre è crollata, ha ceduto il terreno a valle, come ha ceduto anche la chiesa sotto, la chiesa triapsidata. Pensate, a un certo punto una chiesa che probabilmente era di grande importanza, dove veniva tanta gente, passava da San Pietro, poi arrivava in questa chiesa, poi proseguiva, chissà, non sappiamo ancora bene, ma in ogni caso erano chiese importanti lungo un sentiero che rimaneva in quota e che partiva dall'inizio della Val Venosta. C'è proprio ancora oggi una strada, questa strada rimane perfettamente in quota e passa vicino a una chiesa, Sant'Ippolito se non ricordo male, arriva a San Pietro, arriva a Castel Tirolo, prosegue e arriva al paese di Tirolo, per arrivare poi dove? Volendo a Castel San Zeno. A Castel San Zeno, dove forse finiva la strada, dove c'è un'altra cappella importantissima, dove fu sepolto San Valentino per un po' di tempo. Una chiesa particolare, perché è una chiesa, quella di Castel San Zeno, che non ha un'aula e una sua abside, ha un'aula trasversale e due absidi sul lato est. Quante relazioni che si possono trovare allora in questo caso, e semplicemente da un muro. Ma questo muro romanico non si nota, però io sono andato a vedere dove arrivano le fondazioni e ho trovato una pietra sotto. Ho trovato una pietra, poi ho dato un'occhiata ancora, mi sono allargato un pochino e ho scoperto che quella pietra faceva parte di un muro ancora più antico. Quindi torniamo all'idea di una fortificazione del primo Medioevo o di un'abbazia, non lo sappiamo. Tutte queste tracce qui però ci fanno capire veramente tanto. Questi muri sono ancora visibili oggi, qui siamo nel Prato Superiore, e sono stati fatti dei lavori anche qua. E lì sopra, proprio sopra questo muro qui, si accede, pensate, c'era persino una vecchia scala a cui si accedeva. Beh, sopra quel muro, questo muro qui è molto antico, abbiamo scoperto una canaletta per l'acqua, quindi la sezione, vedete, questo è il muro che abbiamo visto nell'immagine precedente, la scala che saliva, strutture anche più recenti, e una canaletta del castello, perché il castello aveva un sistema idrico fantastico. Pensate, la chiesa triapsidata scoperta poco sotto, abbiamo trovato il muro ovest, il muro verso valle, le absidi, il muro a monte non c'era più, sparito completamente. Sapete perché? Perché in epoca medievale hanno costruito un grande canale o una grande vasca per l'acqua, perché gran parte delle canalizzazioni esterne del castello portavano acqua, tra cui questa, portavano acqua in questo canale. C'è persino ancora oggi, proprio quasi allo strapiombo sul Köstenbach, c'è una specie di scivolo proprio per l'acqua. Quindi tutta la collina è stata fortemente caratterizzata da forme di antropizzazione che si perdono nel tempo, si perdono veramente nel tempo. Persino sul lato est, il lato più disastrato, se vogliamo, del castello. Questa foto l'ho fatta dal basso. Qui ci sono, ecco la tettoia, guardate, qui c'è una scala che sale e sotto questa tettoia ci sono muri che procedono in direzione est, quindi un segno chiarissimo che c'erano altri ambienti, altre stanze, altri vani che purtroppo sono crollati. Qui si intravede appena appena uno dei muri del castello con dei fori nel muro che indicano un solaio. Questi fori qui sono proprio le travi di un solaio, di ambienti che si gettavano verso oriente e che testimoniano il fatto che il castello, anche sul lato orientale, era molto più grande. E muri come questi, come questo qua, vedete, qui siamo proprio tanto in discesa, qui va giù tantissimo. Eppure questa zona è veramente e fortemente caratterizzata dalla presenza di strutture, e strutture romaniche. Alcuni tratti di opus spicatum poi ci aiutano tantissimo. Forse uno dei ritrovamenti più particolari è venuto alla luce quando hanno ristrutturato il ristorante che c'è sotto il castello. Fanno i lavori e mi trovo davanti questa scena. Che cos'è questa? Una casa tardo-romana. Questa è rimasta così, sotto la veranda del ristorante, è rimasta intatta. Ho lasciato le cose, ho documentato, disegnato, fotografato, fatto di tutto. Tutti gli scavi, qui devo ribadirlo, erano sotto la direzione scientifica dell'Ufficio Beni Archeologici della provincia. E quindi io ho lavorato sempre per questo ufficio come collaboratore esterno. E qui ci troviamo di fronte a un edificio molto importante, un pavimento in malta di ottima fattura, con una preparazione, una Steinrollierung si dice, una preparazione in pietre e muri da 60 centimetri, misura magica, 60 centimetri, due piedi romani. Era una misura classica degli edifici romani e del primissimo Medioevo. Quindi pensate, trovare questa situazione e dire non posso andare oltre perché sennò vado sotto il ristorante e quello del ristorante me ne dice tutti i colori, il buon Edel. Però la situazione è documentata e questa è una cosa ovviamente più importante. Alcuni reperti, questa è ceramica, un coperchio, ceramica, una punta di freccia, un ago crinale in osso, un coltellino, un peso da telaio, non tantissimo, però tutti i reperti che si datano con una certa facilità. Adesso io torno un attimo all'immagine, ecco, all'immagine iniziale, a questo, perché voglio terminare con un discorso un po' particolare. L'archeologia, l'avete visto, è una scienza. Attraverso l'archeologia si cerca di interpretare le cose, di ipotizzare sulla base di qualche cosa, naturalmente non così di pura fantasia. Ma l'archeologia a volte può essere anche qualcos'altro, come il momento estremamente emozionante della scoperta della pisside d'argento, inaspettata. Noi non abbiamo in Alto Adige tante iscrizioni altomedievali, anzi, sono proprio poche. Un giorno ero sullo scavo e stavo parlando con l'ex direttore e c'era una mia collaboratrice che stava spazzando una lastra che si trovava all'altezza del pavimento della chiesa. A un certo punto mi giro e con la luce un po' radente del sole mi rendo conto che su questa lastra c'è un'incisione, c'è una scritta. Sono svenuto anche quella volta lì. Ottavo secolo. Una scritta che dà l'indicazione di chi era sepolto nella chiesa. Ma attenzione, un piccolo mistero. Allora, la scritta è stata giustamente interpretata da chi fa questo mestiere, quindi chi lo fa molto meglio di me. C'è scritto Hic requiescit, in Anno Domini, non mi ricordo più la scritta, Leo. E si parla di una certa lobecena. Lobecena al Bada. Bene, il termine al Bada è stato interpretato come un riferimento al battesimo. Cosa dici? Difficile, vero? Però c'è questo nome, Lobecena, e ci fanno capire che questo è un nome abbastanza noto in quel periodo, siamo nell'ottavo secolo. Io vedo però che ci sono, e stranamente, Al-Bada è scritta con una A minuscola, una lambda minuscola e poi le lettere sono in maiuscolo. E io questo mistero non riesco a capirlo. Come mi rendo conto che qui vi dico una cosa che non potrà essere né avvalorata né smentita, ma sicuramente proviene da una persona che non è un epigrafista. Dico solo, ho la sensazione che sotto ci sia scritto il nome Ada. E Santa Ada era una santa di Augsburg e si sa benissimo che dopo la sua morte parte delle sue reliquie sono transitate per la via Claudia Augusta, passando sotto Casteltirolo. Bene, qui l'ho detto e qui lo nego, va bene? Però lo dico per suscitare un po' di fascino in tutto questo. Come un certo fascino mi ha creato la scoperta di un recinto molto complesso di legno che si trovava tra l'aula e le absidi della chiesa, di cui abbiamo riconosciuto perfettamente le tracce del legno nella malta. Tantissime cose, come non vi ho detto, quando io ho tolto la lastra che copriva il locus delle reliquie, sulla montagna di pietra e malta c'era impresso nella malta, prima di sigillare il tutto per nascondere le reliquie, perché sono state nascoste naturalmente, c'era impresso un ferro di cavallo. Altro mistero. Come un antico documento che si trova in Svizzera, che parla proprio della zona di Casteltirolo, della collina, e dice che prima del castello c'era ein alter Friedhof. Giusto, Leo? Un antico cimitero. Beh, quello l'abbiamo trovato. L'abbiamo trovato perché intorno alla chiesa abbiamo messo in luce circa una trentina di sepolture, tra cui anche una ragazzina che aveva degli orecchini bellissimi che si datano al VII secolo. E poi, ecco, dove un po' la concretezza, l'obiettività dell'archeologia perde un attimino. A un certo punto ho trovato una coppia di gemelli che avrà avuto circa 6-7 mesi, sepolti appena fuori della chiesa. Sul lato est, della chiesa, dove c'era un numero veramente incredibile di tombe, c'era lo scheletro di una donna che teneva a sé un bambino appena nato. Qui non è più archeologia, Sì, è archeologia, certo, perché poi bisogna fare la scheda dello scheletro, bisogna raccogliere le ossa in un certo modo, eccetera, eccetera, ma si va un po' oltre. E allora si cerca di entrare un po', come dire, in empatia con queste scoperte e dire: questa donna ha sofferto, è morta di parto, è morto anche il bambino, l'hanno sepolta in terra consacrata vicino a questa chiesa così importante. Magari era un personaggio anche importante, perché non era da tutti essere sepolti nelle vicinanze di un edificio di culto. E da un'altra parte ancora, un piccolissimo feto, forse di 4-5 mesi, il cranio aveva uno spessore di qualche decimo di millimetro, ma si era conservato. Lo fotografiamo, facciamo le solite cose, ci mancherebbe altro, fa parte del nostro lavoro, ma non possiamo non soffermarci un attimo a osservare questi reperti con un senso di umanità, di quasi di voglia di trascendere il tempo e poter andare a vedere quanta sofferenza può aver portato la morte di questo piccolino, o di questa mamma con questo bambino, o di tante altre persone che erano sepolte lì intorno, intorno a questa chiesa, che poi scompare. Sapete perché scompare? Perché quando hanno costruito il castello, hanno praticamente tagliato la sommità, hanno decapitato la cima della collina per realizzare il castello, come viene fatto in tantissimi castelli. Ricordo anche Castelroncolo, quella volta che è stata fatta quella trincea all'interno, non c'era quasi niente in pratica, perché era stato tutto scalpellato, come Raffenstein, tutto scalpellato, e nelle torri angolari di Raffenstein riempite completamente col materiale di risulta della roccia che era stata smantellata. Beh, a Castel Tirolo è successa la stessa cosa, e abbiamo una stratigrafia verticale meravigliosa, dove abbiamo i resti della chiesa che pian pianino scompaiono, e poi una stratigrafia complessa di strati che non finiscono più, che vanno a coprire gli ultimi resti della chiesa, che scompare, riteniamo, nel decimo, forse inizio undicesimo secolo, ma sicuramente nel decimo. La chiesa scompare, sepolta dagli strati del terreno scavato sopra, si perde la memoria, si perde il ricordo di un abisside del quinto secolo con dentro dei santi di cui non conosceremo mai il nome. Grazie signori di aver ascoltato. Volevo concludere ringraziando ancora Gino Bombonato, Leo Andergassen, che è qui con noi, è rimasto fino alla fine, e sì, sei riuscito a convincerci. Devo dire grazie, perché effettivamente anche evidenziare questo aspetto umano, questa restituzione umana ed empatica del rapporto che può avere un archeologo con le scoperte, con gli oggetti, con i resti che trova, non è così scontato, ecco, per chi non è del mestiere non è così scontato. Mi facevi venire in mente dei personaggi avventurieri, insomma, che ecco, hanno nella fantasia, nella filmografia soprattutto, hanno un po' evidenziato questo rapporto, ma soprattutto la scena del crimine, insomma, torneremo a guardarla, a visitarla con occhi diversi, con più curiosità, e invito anche tutto il pubblico a leggere, ecco, perché abbiamo in biblioteca e nelle biblioteche ci sono tanti documenti dedicati al Castel Tirolo e ai castelli dell'Alto Adige. Grazie e buona serata e un arrivederci a tutti.